vista è bella massiccia. Sono che quei radiali, tu immagina 2 metri 70 in orizzontale, e come si comporteranno col vento? Boh. Non è marre, no. Era un plin che c'avevo io, erano 2 metri 70 lo stesso. Eia, ma inclinati, no? Gli plane inclinati in basso. Lì sono orizzontali, sai quante cornacchie ci stanno lì in orizzontale? E appunto. Però dice che sono materiali che dopo 20 anni ti giri sul tetto guardando e dici, cazzo, ancora c'è la mia antenna. Eia. Vabbè, quindi ne è nata tutta una polemica su Roger K. Comunque un po' è vero, prima ne ha fatto un monumento, ora la Game Master adesso la sta sminuendo, e gli hanno detto di essere più coerente a questo Francesco. Poi prove non ne ha fatto, prove su strada, un radioamatore ha fatto delle prove, però siamo sempre lì, cioè più di tanto non puoi ottenere, capito? Cosa guadagni? Un decibel, cosa vuoi che sia? È una cosa infinitesimale. E dipende sempre da chi lo paga, quindi lui fa propaganda. Comunque, a proposito di propaganda, a chi interessa, è uscita la Turbo 2001 con la bandiera sarda. Se interessa qualcuno, mi hanno detto di pubblicizzarla in frequenza. Sì, me l'ha detto Fuggiaro. Sì, anche a me ha detto lì. Vabbè, io non appello perché ce l'ho già, ma se interessa qualcuno è carina. Ah, con la base, con la bobina dei quattro mori, è carina. Vabbè, io non, in macchina non ne metterò più, mi sono rotto le palle un po'. Adesso rilanciamo, vediamo se è entrato Franco. Io adesso chiudo, già che non mi accendo la TV, voglio estendermi e ricollassarmi. Ciao, quindi Bombolo, Gianni, Luca se c'è ancora, Franco, più 10.000 persone all'ascolto, dai, sentiamo. Vai Gianni. Ciao Marco, dai, ci sentiamo, buonanotte, alle prossimine, avanti Luca. Luca, beh, vai per nessuno, no. Chi è rimasto avanti, oltre che me e Bombolo? Che adesso che la TV sono, dai Franco ci sei, Frank parla tu, dai chiudo anche io, dai visto che non ce ne sono, vado e mi guardo un po' il televisore. Scappa, non si intende lo stacco? Il mio si sente? Sì si sente anche. Scappa, basta il stacco che va. No, che non si intende, ma nell'odore già si intende, già. Ma c'è mai il stacco, 5 per 1 si intende nulla a certo. Vabbè. Non potete dirne tu. Già, dov'è che la città sta qua? Non è stato per il tuo altare, non lo suo. Ma questo mi piaccia di che apparecchio. Oh, c'è no tu. Tony, ma questo bip di che apparecchio è? È Galaxy. E là c'è un bip diverso. Ehi! Abbiamo... Buonanotte già, buonanotte a tutti, ciao ciao. Passi per me, non ti vai a sfondolare. È finita. Dai, buonanotte, dai, ciao ciao. Ma si sentiva un po' lo stacco, non era forte ma gli si sentiva. No, ci siete più attento, si attacca, hai visto che si è sentito che sono messo un bip, da dove è tutto fuori. Dal giornalino di Topolino. Fatto un pacco di battati di sci. E tu dico però diverso. È il mio diverso il bip. Sì, il tuo diverso, il mio è stanco. Questo è originale, proprio. Questo è politico. Ma così te l'hanno venuto? Ehi, così. Vedi quello. Dino, quello della polizia. Oh yeah. E infatti qualche persona diceva che io stavo usando. Chissà che paracchino, altro nome io sono che sapete di caracchino. Ma se gli ha avuto fare il video e mandarci. C'era Franco e poi si è sentato, buco, io chiamavo di lui se non ha entrato. Franco adesso, ormai non è più solo. Vabbè, ma c'è abbastanza libero, beh. questo o se è per me della sigaretta, questo non so. Adesso passo di tirata io. Niente, ti sto guardando più già, ha fatto come più a telefono, ha trattenuto un po' e poi si può fare. Allora, mio figlio ha fatto il vaccino perché gliel'hanno obbligato a farglielo perché lui è nella protezione civica. Mi sta facendo mal di testa, un po' di nausea e capocciglio. Invece una persona che conosco io, quando ha avuto il coronavirus, sempre stanca, sempre svogliata, sempre dice che non si è ripresa più, da, sempre stanca. E capo, io ho detto una cosa, non farlo, non si va a casa. Io non lo so, non so prendere il telefono. Aspetta un mica, metto il telefono in carica, se vuoi chiamare e mi si scappa. Ci siete ancora? Sì, chi ha fatto il nome? Aspettate, ho fatto casino qua con l'antenna e con i microfoni. Volevo chiedere a Tonino, ma Tonino, ma la Energy funziona sempre integra, ti dico perché tu sei calato stranamente da 9,10 normale a 9,5 modulato, ma ha avuto problemi l'antenna o ha cambiato antenna? Interrogativo. No, è sempre quella l'antenna, qui aveva qualche pizza più, non ce l'ho più e quindi sono liscio liscio, ma domani riacquista di nuovo il mio segnale. Ah, per quello, sì, perché poi io te l'ho sentito quando eri ritornato, no? Cioè prima di partire eri segnale forte, poi eri ritornato dall'operazione, pochi giorni dopo ti ho visto a Santiago 9. Ecco, la mia non è, sono tutti uguali segnale, non capivo cosa era successo. No, perché queste antenne Energy, sì, sono economiche, no? L'hanno criticata, qualcuno è arrivato a dire, non qua, in continente, che sono antenne monostagione, cioè che durano una stagione e poi le devi buttare. Invece non è vero, io l'Energy ce l'ho da 6 anni e mezzo, ha appena compiuto 6 anni e mezzo, quindi non sono usa e getta un anno come dicono certi. No, negativo, sono buone come antenne, ma con questo posso garantire a media politica. Niente, io mi sono operato per il mio disco, ma quando farò operato anche il baracchino dell'Irmi. No, niente, ho riparato qualcosa, adesso domani ero il tiro e ti ritorno a vedere prima più o meno, dai. E che ti posso dire? Niente, io mi sono operato bene nel disco, tornando al discorso, ho concluso niente, devo ripartire e rioperarmi. Sì, dal poco che ho sentito non hanno risolto tutto quello che dovevano risolvere. Era qualcosa attinente a un canale stretto, parole tue. Canale stretto, quindi immagino che qualche nervo sia schiacciato. Può darsi pure, Tony, che non si siano fidati però, perché essendo la zona molto delicata, cioè fare tutto in una volta potrebbe essere anche rischioso, mi. Fare tutto in una volta, dovrebbero prolungare l'ore e le ore di operazione, capito? Sì, capisco, però io ho già parlato che mi ho operato, perché da su, dalla Brianza, poi Lugo, Ravenna è venuto qua al vero, è visitato, e noi ancora sono stesso, aspettiamo fino a 23 adesso, si è fatta con me, mi sono fatta ritorna e poi andiamo al canale, capito? Ho fatto bene il giusto, che poi prendeva il nervo sciatico, però è subentrato altro, ha visto bene tutto, sì, tutto non tira proprio la parte. E va bene, ci vado ben volentieri, Marco, perché ripeto, sono fatto bene, non mi ho mai parlato di famiglia, e con l'anestesia generale, quando c'è l'anestesia spesso di canna, ho detto, ma questo posto di anestesia, ma è tra un po'. Come ha detto, tra un po' io chiuso gli occhi, mi c'era già fatta l'anestesia. E ti giuro, come ho chiuso gli occhi, sentivo Antonio, mi sono aperto gli occhi, quel 7% è comodo. E mi ha detto, tutto fatto, e mi ha dato giù in camera. Il cavolo, l'anestesia purtroppo è così, mi ha intoppato giustamente perché quando farò queste operazioni, però se lo fanno quando si è già commentato, non si è finito. E quando si sveglia non c'è niente. Sono veramente bravi, capito? Sì, non te ne accorgi. Io la prima volta dell'anestesia, dei calcoli, sono dovuti entrare, distruggere col laser, Io un istante prima ero in camera operatore, un istante dopo ero in corridoio. E ho detto, ma quando mi operate? Ti abbiamo già operato, già voi. Non te ne accorgi? Mamma mia, vabbè. Intanto tre volte io mi nella vita già per operazioni, con anestesia generale, non locale. Sì, sì, anche a me in generale. Gianni, ce l'hai fatto? Sì, io. Mi prendo. Sono stato con la trappa lì, che mi stavo attaccando l'altro. Ecco. Niente, ci vado dopo lo chiedo. Un ospedale e l'avanguardia, piccola per un'altra cosa. Prima di operarmi mi avevi fatto tutte le visite, anche il motore di risonanza, poi da che qua, quando ero fatto la risonanza, 40 minuti, lì in 10 minuti ci fanno la risonanza, macchinari, certificati, manco paragone, che le abbiamo fatto. Io credevo che fossi stato all'Humanitas a Milano, invece era un altro centro. Anche l'Humanitas è roba alla fantascienza, eh. Qua sono degli zotticoni a sassari, qua ti pigliano voci pure. Là è tutto un altro mondo. Mi hanno messo la cuffia, mi hanno messo la coperta in tipo un piotto. Poi mi hanno messo tutto imburicato, che capita? Sì, allora, dopo si chiama Maria Cecilia Hospital. Trova Lugo, provincia di Ravenna, Cortignola. Insomma, mi piace essere molto più fritto, quindi ho l'autostrada comunque. L'ospedale è enorme, lo stanno anche ampliando perché stanno costruendo a fianco. In questo ospedale c'è tutto, già ci sono 3-4 piani. La parte al bar, c'è il museo supermercato, c'è il vestibolo. C'è il vinicola, insomma, tanti di quei luci che non lo so tutto. Bello, tutto il mosaico, salotti, sale grandissime, guarda, io ho tirato un po', ma posso dire tutto che non ho detto cosa lì, non devo uscire dalla tappa, perché qua, dopo la vita. Dove ci faceva il sapone ogni giorno, sempre negativo che funziona. Posso dire, personale, non è veramente buono. Riprendi già, dai, io ho già acceso la TV e stavo facendo casino con i cavi qua, mettendo a posto. Vai Gianni, che adesso chiudo, mi guardo qualche film, boh, qualcosa mi guarderò. Grazie, ma anche io stavo per chiudere e poi è stato tutto lì, sono restato. Non so come sta andando questo microfono, se va meglio o peggio dell'altro. In lontananza. Sono molto lontano. E io è più lontana già, più lontana. Ma è da Palmo? No, no. È Israele. Forse è Gianni che non esce. Gianni, tu sei? No, non sono io. No, che porta è Gianni, questo è fatto. Cioè, ma dopo entra, entra, se no finisce le ruote. Magari è qualcuno che sta tentando di comunicare ma non esce. Sì, sta fischiando. Cos'è, toccai? No, scusate, telefono. Passo da te già. No, non passo. Tocca questo più acuto. Quindi questo qui è basso. Aspetta che l'altro, dai, vediamo un pochino. Come va adesso? Ehi, un tantino meglio. Un tantino, questo ci dice sempre una volta, che strano. Ma conta una cosa già, io per non disturbare mamma tengo il volume di ricezione che ha filo, eh. Allora non mi dire che è tantino, capisce poco. Ci sentiamo, ciao Gianni. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, dai, chiudo. Eh beh, tu mi ripigiti, ah però, bu-